succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. La base si ribella contro Veltroni, state distruggendo la sinistra. Sfogo collettivo sul web dopo l'ondata giudiziaria. Vergognatevi e rimediate. Nel mirino soprattutto i leader, sei solo parole, ma noi vogliamo i fatti. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Vi sto leggendo i titoli di pagina 3 del quotidiano Il Giornale, che è, come dire, enfatizza ovviamente molto la crisi di consenso che c'è all'interno del PD e anche la cosiddetta questione morale. E Vincenzo Lamanna, come dire, prende il quotidiano L'Unità di ieri e ne fa un suo manifesto. Allora, la rabbia e l'orgoglio. Carla, facciamo piazza pulita, ricominciamo. Pampagallo, stufi delle vostre autocritiche. E dice l'autore dell'articolo, non si può dire che sia un'invenzione. D'altronde, come si fa a pensare diversamente quando è L'Unità ieri a titolare "Non facciamoci del male", modificando il vecchio ma più che mai attuale tormentone di Nanni Moretti? E non è per fare un regalo al centrodestra che il quotidiano diretto da Concita De Gregorio pubblica pure 23 messaggi inviati dai suoi lettori via lettera o sms, poco importa, estrapolandoli dal forum su etica e politica. E così si vede che gli sfoghi di Paolo, Artemisia, Edmondo sono la puntina dell'iceberg. Questo il quotidiano Il Giornale. Il Giornale, tra altre cose, pubblica anche accanto un'intervista nelle due pagine che definite Tangentopoli Democratica, un'intervista ad Achille Occhetto. Questione morale nel Partito Democratico, non neghiamo l'evidenza e il pesce puzza dalla testa. Onorevole Occhetto, faccio subito la domanda più scomoda, dice Luca Telese. Le diranno che lei così fa il gioco del cavaliere. A parte il fatto, e ci tengo che lo scriva, che la questione morale per me esiste anche dentro un pezzo della destra, dove assume dimensioni per così dire strutturali, il problema è un altro. Si può continuare a negare l'evidenza? Io credo di no. E l'evidenza quale sarebbe? Il vecchio Napoleone Colaianni, quello risorgimentale, diceva il pesce puzza dalla testa, il pesce del PD, il suo vertice. Intendiamoci, in quel gruppo dirigente conosco tutti da quando erano ragazzi. Quando dico che il pesce puzza, sono certo che non siano personalmente corrotti. Non è una precisazione da poco. Intendo dire che non ci sono responsabilità penali e se anche ci fossero non mi interessano, ma che ci sono invece responsabilità politiche e culturali gravi. Ad esempio, io non credo, ad esempio, che i piani regolatori si facciano negli hotel a pranzo con i palazzinari. Questo dice Achille Occhetto nell'intervista al Giornale, a Luca Telese del Giornale. Tra altre cose, in un passaggio di intervista si chiede Occhetto dove si va a finire quando il sogno più grande è avere una banca, e questo forse è uno dei punti più dolenti sottolineati da Achille Occhetto nell'intervista al Giornale. Giornale che peraltro intervista anche Pier Ferdinando Casini, che dice facciamo le riforme ma senza Antonio Di Pietro. Veltroni scarichi l'alleato giustizialista e accetti di fare la riforma con noi, il PDL, la riforma della giustizia si intende. E sui guai del PD, per anni hanno predicato l'infallibilità dei PM, ma chi di moralismo ferisce, si dice, di moralismo perisce. Questo il quotidiano Il Giornale. Ma non è solo il Giornale a, diciamo così, a picchiare duro su questa questione, la questione morale, perché se noi andiamo a vedere il quotidiano La Stampa, Luca Ricolfi sulla Stampa, troviamo parole diciamo Genova, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, scrive Ricolfi, per non parlare dell'Abruzzo e della Calabria, da nord a sud, ma specialmente nelle regioni rosse e nel Mezzogiorno, le inchieste giudiziarie stanno travolgendo il partito di Beltroni. E questo scrive Ricolfi. Gli elettori di sinistra sono per l'ennesima volta sgomenti e stupefatti, eppure non dovrebbero esserlo più di tanto. Lo spettacolo cui oggi assistiamo, infatti, non è iniziato nelle ultime settimane, ma continua ad andare in scena da anni ed era largamente prevedibile, perché le sue radici non stanno in qualche errore dell'oggi, ma in meccanismi e scelte politiche che risalgono molto indietro nel tempo. E c'è una ricostruzione di Luca Ricolfi a proposito della reazione a Tangentopoli. Se oggi siamo solo a questo punto è anche perché la politica, tutta la politica, non solo quella della sinistra, anziché reagire a Tangentopoli tentando un'autoriforma, preferì battere un'altra strada, la legalizzazione dell'abuso di potere. Un tassello dopo l'altro, un intero sistema di norme penali e amministrative venne riconfigurato per rendere possibile il finanziamento e l'espansione del potere dei partiti, anche senza violare la legge. E ancora, scrive Ricolfi, spiace ritornare sul punto più spinoso, quello delle candidature degli eletti, ma occorrerà pure farsi qualche domanda, perché quando si è trattato di scegliere i candidati alle ultime elezioni politiche, il PD non ha deciso di escludere, non dico tutti gli inquisiti, ma tutti gli inviati a giudizio, o almeno tutti i condannati? O dobbiamo pensare che l'opinione che i dirigenti del PD hanno della magistratura è così negativa e così diversa da quella proclamata in pubblico da suggerire di ignorare completamente gli indizi che emergono dalla sua attività? Ecco, questo è un altro dei punti dolenti che vengono denunciati dalla stampa, da Luca Ricolfi. Tra le altre cose, il quotidiano La Stampa intervista anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che dice: stavolta è peggio di Tangentopoli, non si pensa più alla polis ma solo al proprio interesse personale. E oggi purtroppo c'è una tendenza al vuoto dei valori, non vorrei affermare che questa sia una scelta, ma sembra essere una tendenza molto incoraggiata. Nel scegliere non si sceglie rispetto a una scala di valori, ma si sceglie pensando a quale sarà il riflesso della propria decisione e a quello che ne sarà l'effetto, e questo è il contrario di scelte motivate da valori etici, dice Carlo Azeglio Ciampi alla Stampa. Lei intende dire che la combinazione di paura e cultura dell'apparenza genera il corrompimento della vita civile? Sì, perché un altro dei passaggi, dice Ciampi, c'è una questione, un'altra questione. La situazione è certamente difficile, dunque chi deve prendere decisioni è preoccupato. Per prendere decisioni corrette è necessario raggiungere una profonda conoscenza delle cose e poi alla fine far ricorso alla propria coscienza. Ed è un altro dei punti che preoccupa Carlo Azeglio Ciampi, è la paura, dice la gente si muove sulla base della paura e questo non è buono. Questo sul quotidiano La Stampa, che tra le altre cose intervista Ettore Bernabei, un vecchio democristiano, diciamo. Il caso Firenze: diffido delle inchieste prima delle elezioni, si è perduto il ben dell'intelletto, basti pensare al tram in centro, serve un'iniezione di laicità, dice Ettore Bernabei, eppure cattolico fanfaniano che guidò la RAI nei tempi passati. Adesso mi pare che dobbiamo dare la linea all'anticipazione del GR e poi torniamo alla rassegna stampa. Giustizia, ultimatum del Popolo della Libertà, subito la riforma con Veltroni o facciamo da soli. Il Partito Democratico replica: trattiamo. Il quotidiano La Repubblica si occupa ovviamente della questione giustizia, della questione corruzione all'interno del Partito Democratico, ma il taglio che ne dà Edmondo Berselli a proposito delle accuse che vengono da Berlusconi, che ha detto esiste una questione morale, sono molto diverse da quelle di altri quotidiani. Scrive Edmondo Berselli in prima pagina, nel commento dal titolo Lo scenario capovolto: ci vuole la sfrontata fantasia di Silvio Berlusconi per attaccare il Partito Democratico sulla questione morale. perché anche chi ha criticato la ventata populista dei primi anni 90 e non ha mai pensato che i giudici possedessero la chiave della rivoluzione politica, non può aver dimenticato la sequela di leggi ad personam volute dal capo del centrodestra, tutte tese a legare le mani a procure e tribunali dal decreto Biondi del 94 fino al lodo Alfano. E scrive ancora Edmondo Berselli: il centrodestra ha dedicato quasi 15 anni a regolare i conti con la magistratura, le toghe rosse nel lessico berlusconiano. Alla fine, vinta la sua guerra personale, Berlusconi si è assunto tutte le responsabilità politico-penali della Prima Repubblica, concludendo che i magistrati sono i veri colpevoli di ciò che ha spezzato una storia di sviluppo e di libertà. Se si accetta il teorema di un sequestro della vita pubblica operato nei primi anni 90 da Mani Pulite, con il corollario di una lotta per la vita durata fino ad oggi fra la politica e la giustizia, risulta facile chiudere il sillogismo argomentando che in questi giorni si assiste alla vendetta della giustizia contro chi pretese di cavalcarla, salvandosi immeritatamente dalla tempesta che travolse il sistema politico affaristico di Tangentopoli. Ma è una ricostruzione distorta, scrive Edmondo Berselli. E ancora dice: quindi il PD non dovrebbe limitarsi a respingere con disprezzo le provocazioni di Berlusconi. Se una decente qualità tecnica e morale nelle amministrazioni costituisce una delle risorse residue del partito, qualsiasi incrinatura in questo patrimonio va considerata un'insidia grave. Ma, dice, almeno però un buon esame di coscienza è il primo passo per correggere scarti e deviazioni. E poiché ci vuole poco capire che i possibili effetti della propaganda berlusconiana sulla questione morale si intrecciano alla difficoltà evidente di per sé sul terreno politico, sarebbe bene rendersi conto che in questo momento al PD non serve la routine e neppure le parole d'ordine. Ci vuole una seria mobilitazione organizzativa e istituzionale per definire con chiarezza i contorni effettivi di un'emergenza e per decidere razionalmente le contromisure. Insomma, quindi comunque un tono molto diverso. Voglio dirvi che, come molti giornali, anche la Repubblica, anzi la Repubblica ne fa la prima notizia in sostanza: caos e guerriglia in Grecia, la polizia uccide uno studente. La cosa interessante è che nell'analisi di Sandro Viola, l'ombra nera della crisi, appunto, si mette in relazione quello che avviene in Grecia con la crisi economica che sta invadendo ormai tutto il mondo occidentale e non solo. I gravi disordini che agitano da due giorni la Grecia rappresentano la prima reazione violenta verificatasi in Occidente a causa della crisi economico-finanziaria e delle misure restrittive adottate dai vari governi, scrive Sandro Viola. E aggiunge: la Grecia era sembrata, specie dopo il suo ingresso nell'euro, un paese abbastanza progredito dopo il suo lungo passato di povertà, non proprio solido ma capace di tenersi in piedi, e anche politicamente l'epoca del populismo sfrenato degli anni 90, del muro contro muro tra sinistra e destra, sembrava ormai trascorso. Gli scontri tra manifestanti e polizia di sabato e di ieri sono quindi da un lato una brutta e inquietante sorpresa e dall'altro il segno di come la crisi possa pesare, agitandoli fino alle battaglie di strada, i paesi economicamente più deboli. Ed è quindi nel contesto della crisi e delle paure che essa suscita nelle classi più disagiate che va posto il tragico episodio di sabato sera, quando un agente di polizia ha ucciso con un colpo di rivoltella un ragazzo di 15 anni. Le manifestazioni erano iniziate nel pomeriggio e qui c'è tutta la ricostruzione di quello che è avvenuto, fino agli assalti al municipio, a Salonicco. A Patrasso ci sono stati una ventina di feriti tra dimostranti e forze dell'ordine. Gravi disordini si sono avuti anche a Iannina, come nelle manifestazioni del 73 e dell'85, quando morì un altro studente. Si può forse parlare di moti studenteschi. Ecco, questo è quello che si legge sul quotidiano La Repubblica a proposito invece di quello che sta avvenendo in Grecia. Io volevo invece vedere che cosa scrive oggi l'Unità, perché se l'Unità ieri, come ha sottolineato il giornale, si è fatta portavoce, insomma, di tutti gli scontenti all'interno del Partito Democratico, pubblicando integralmente sms o lettere, insomma, degli elettori e dei militanti del PD, oggi l'Unità torna però al contrattacco di Berlusconi. E infatti il titolo di apertura, il titolo di copertina è La banda degli onesti. 17 processi sono quelli a carico del Premier, 4 sospesi con il lodo Alfano. 45 indagati sono quelli eletti nelle liste del PD e loro danno lezione. Ed è proprio Concita De Gregorio che, dopo aver ieri fatto la scelta di, come dire, dare voce all'opposizione interna, scrive: noi eravamo qui con i nostri elettori, con la gente che ci ferma per strada a provare a distinguere, mica un ragionamento complesso, per carità, un discorso semplice che separi la politica dalla giustizia, dalla coscienza. Ed ecco la barbarie, il tritacarne di cui si parlava ieri. Ecco che il centrodestra, Berlusconi in testa, va all'assalto della Tangentopoli del PD. Il Premier lo dice indignato, una smorfia schifata, si vantavano di avere l'esclusiva dell'etica e invece guardate. Uno dei suoi compare nel TG e dice: adesso chiedano scusa a Craxi. Un altro piduista, Cicchito, parla di vendetta della storia. Manca solo Gelli a dar lezioni di morale, ma è questione di tempo. Aspettiamo la prossima puntata del suo programma TV, quello con cui spiega come affiliò Berlusconi e addita Veltroni come il nemico. Non vedevano l'ora, sono in festa. Questo scrive Concita Gregorio a proposito delle critiche, degli attacchi. C'è anche Staino che scrive: ma il PD non sa lavare i propri panni in famiglia, certo, ma il problema oggi sembra sia quello di lavare anche la famiglia. E questo è Staino che, insomma, anche qui ci va abbastanza duro a proposito di questa questione. E poi un'altra vignetta di Maramotti: devi chiedere scusa a Craxi perché Berlusconi non gliel'ho mica presentato io. Insomma, questo è l'unità quindi torna a difendersi, e anche l'unità dà spazio alle vicende che ci arrivano dalla Grecia. Ucciso un ragazzo, rivolto in Grecia, la polizia spara, la vittima aveva solo 15 anni, la protesta dilaga in tutto il paese. Questo si legge, vediamo se troviamo qualcosa, sì, no, a proposito della rivolta in Grecia. Dobbiamo andare al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ovviamente titola su giustizia, il governo accelera, e il Corriere della Sera intervista a questo proposito Luciano Violante. Sì, se noi andiamo a pagina 9 troviamo un'intervista di Luciano Violante che farà arrabbiare molto i pubblici ministeri, i magistrati. Violante: i magistrati hanno troppo potere. Onorevole Luciano Violante, dopo la nuova guerra tra le toghe la maggioranza invoca a gran voce la riforma della giustizia, lei è d'accordo? Facciamo un'ipotesi, cioè che il nuovo caso sia un'eccezione. Dovremmo registrare, dopo il tempestivo intervento del capo dello Stato, che il CSM si è mosso con immediatezza ed efficacia. Tutto bene, ma io però non sono affatto convinto che sia un'eccezione. Perché? Lo scontro tra Salerno e Catanzaro, quindi qui si parla non tanto della corruzione all'interno del PD, ma, insomma, del problema morale all'interno del PD, ma dello scontro tra le due, il clamoroso scontro tra le due procure, lo scontro tra Salerno e Catanzaro, è la logica conseguenza del fatto che per anni la politica ha omesso di affrontare seriamente il tema della magistratura come potere. Il centrodestra in verità il problema non se lo è posto, ma in modo che è apparso ritorsivo, non riformatore. Il centrosinistra non ne ha parlato per timore di limitare l'indipendenza dei magistrati. Eppure negli ultimi decenni il potere delle diverse magistrature è cresciuto a dismisura, in modo spesso autoreferenziale e quindi non sempre accompagnato da quella autodisciplina che dovrebbe sempre ispirare l'esercizio delle funzioni pubbliche, specie in quelle che più hanno bisogno della fiducia dei cittadini. Ecco perché è evidente che ormai è necessario fare la riforma subito. Come mai è tanto cresciuto il potere della magistratura? Chiede Maria Antonietta Calabrò a Luciano Violante. Il fenomeno è generale in tutto il mondo. Basta pensare al ruolo della Corte Suprema thailandese nella crisi dei giorni scorsi, per non parlare di quello giocato dalla Corte Suprema americana nella prima elezione di Bush. Ma in Italia ha una sua peculiarità, perché? Per tre motivi. Innanzitutto perché manca nel mondo politico la consapevolezza della necessità di un'etica pubblica e di una responsabilità politica indipendente e separata dalla responsabilità penale. Quindi questa è la tesi di Luciano Violante a proposito dello scontro tra poteri. Ma il Corriere della Sera invece affida anche a Francesco Giavazzi su un altro tema: l'Italia e la recessione, trovare il coraggio. Le cifre che fornisce Giavazzi sono brutte, insomma. Dice: l'OCSE stima che fra un anno la disoccupazione in Italia raggiungerà l'8%, quasi due punti in più rispetto all'anno scorso. Questo significa che il numero di persone in cerca di lavoro aumenterà di circa 500.000, da 1,7 a 2,2 milioni. Ma quando trovare un posto di lavoro diventa difficile, molti lavoratori, soprattutto donne e giovani, si scoraggiano e smettono di cercare. Quindi non risultano disoccupati. Nel 2009 si potrebbero perdere ben più di 500.000 di posti. Ecco, di fronte a questa questione Francesco Giavazzi propone delle formule che non sono quelle di mantenere il rigore, ma di introdurre però dei sussidi assistenziali in qualche modo alla disoccupazione che crescerà. Adesso diamo la linea alle notizie sul traffico e poi torniamo all'ultima parte della rassegna stampa. Vi dicevo di Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, un'analisi impietosa sul futuro recessivo e di disoccupazione che avremo anche in Italia. E qui Giavazzi propone, vi dicevo, per non interrompere il discorso, due formule. Tra 5 o 6 mesi, quando la recessione entrerà nella sua fase più acuta, il governo avrà di fronte a sé due vie: non deflettere dalla linea di rigore indicata oggi e resistere alla pressione sociale, oppure intervenire allora per sostenere il reddito dei disoccupati e i consumi delle famiglie. Questo scrive: la prima scelta richiederà molto coraggio, è bene che il governo si prepari sin d'ora. La seconda è suicida: più tardi si interviene, più cadono i consumi, più crescono i disoccupati, più costano gli interventi. Questo dice Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera. Come vi dicevo, anche il Corriere della Sera riporta le notizie da Atene: la polizia spara, scontri in tutta la Grecia. Accusato il poliziotto di omicidio volontario, è stato arrestato. Il governo ha reagito con rapidità per cercare di spegnere le proteste. E il premier dice: la situazione è così tesa che il primo ministro Karamanlis ha telefonato al padre del ragazzo ucciso. Tragedie simili non si ripeteranno. Questo si legge sul Corriere della Sera. Ma beh, c'è anche una notizia: il capo del team domenicale del futuro della Formula 1, anche la Ferrari taglia i costi, questo sì. E poi ancora dall'economia di Sergio Bocconi: è Fabio Innocenzi il primo banchiere costretto a lasciare. Questa è la notizia che viene dal mondo dell'economia. Vi dicevo, rimaniamo allora nell'economia per andare intanto al Sole 24 Ore. Crediti d'imposta si cambia, stop automatico ai bonus quando si esauriscono le risorse disponibili. Il sistema del monitoraggio si estende a tutti i crediti d'imposta e per gli altri 16 bonus finora automatici scatta di fatto la procedura di prenotazione. Questo è il titolo principale che abbiamo del Sole 24 Ore del lunedì. E ancora gli sconti del fisco: in testa i mutui e le spese mediche. Gli sconti fiscali collegati alle spese mediche valgono ogni anno 2,15 miliardi. Sono di gran lunga il benefit più gettonato dai contribuenti italiani. E la privacy semplifica gli obblighi sulla sicurezza. Ecco un altro servizio. E poi Trenini e Bambole battono i videogame, e questa sarà tra altre cose l'oggetto di dietro la notizia stamane alle 8:30 con Francesca Barbiero, che si occuperà di un tema economico ma anche natalizio che riguarda i doni ai bimbi. Ma se vogliamo rimanere sull'economia, allora noi dobbiamo anche andare a Affari e Finanza. L'inserto del lunedì di Repubblica ed è l'autore, che poi è anche il fondatore di Affari e Finanza, il giornalista Giuseppe Turani, e che parla di un tema industriale molto molto delicato e molto preoccupante: industria gelo al nord-est. Perché preoccupante? Perché il nord-est è stato per anni, in questi ultimi 10 anni, come dire, l'area trainante dell'economia italiana, il mito del nord-est, lo sappiamo tutti. Fino a settembre le imprese hanno tirato, ora è il crollo. Per gennaio è in arrivo un'ondata di fallimenti e di licenziamenti, colpa del tracollo di ordini da Germania e Cina. Non va più neanche il modello Geox, dice Giuseppe Turani, che così aggiunge: per molte piccole e medie imprese del nord-est della Brianza il D-Day è già stato segnato in agenda, si tratta del 31 dicembre. Tiriamo avanti fino alla fine dell'anno, poi decidiamo che cosa fare, mettiamo tutti in cassa integrazione o magari chiudiamo proprio la fabbrica e ci ritiriamo dagli affari. Molti di noi ormai hanno ordini in portafoglio per 3 giorni, qualcuno addirittura non ne ha proprio, nemmeno per mezza giornata. È probabile, insomma, che l'inizio del 2009, gennaio e febbraio, sia una stagione incubo per la piccola e media impresa delle zone fino all'altro ieri più dinamiche dell'intero paese. Questo leggiamo su Affari e Finanze, è una lunga inchiesta, dice: posti come certi distretti industriali, dal mobile alla sedia alla meccanica, che mai avevano preso in considerazione nemmeno l'ipotesi di una crisi o di un ridimensionamento. La situazione è ancora incerta, è un po' vaga fino al 31 dicembre, ma c'è la sensazione che l'esplosione di un certo mondo industriale, se ci sarà, sarà proprio un'esplosione. Nel giro di poche settimane potrebbero sparire centinaia e centinaia di aziende e decine di migliaia di persone rischiano di trovarsi senza lavoro. Questo è, insomma, un dato anche un po' allarmistico, ma insomma che ci viene segnalato da un lungo servizio di Giuseppe Turani su Affari e Finanza. Teniamo gli ordini in stand by per essere pronti a ripartire. Questo Beraldo è amministratore delegato del gruppo Coin. C'è grande incertezza sul Natale, può anche andare meno peggio del previsto, però qui c'è un po' più di ottimismo a proposito della prospettiva. E ancora una volta è Federico Rampini che aggiunge a questo quadro: se tramonta l'impero di Cindia, anche le economie indiane e cinesi sono in brusca frenata, addio secolo asiatico, questo è il punto di domanda. E qui Federico Rampini, esperto di questa area del mondo, scrive di questo su Affari e Finanza. Il Corriere Economia invece parla di Telecom. Dopo un anno di gestione, via alle cessioni e alla riorganizzazione dell'azienda, stop sui nuovi soci, l'arrocco di Bernabé, questo è il titolo principale del Corriere Economia. Pressato dai debiti, l'amministratore delegato di Telecom punta tutto sul mercato interno, resiste solo il Brasile, intanto il centrodestra si divide sul nodo della rete. E Federico De Rosa ed Edoardo Segantini che scrivono questo articolo. Era il 3 dicembre 2007 quando Franco Bernabé assunse la guida di Telecom. Un anno dopo è il tempo delle decisioni. In 12 mesi di gestione non si è invertita la tendenza e il piano triennale gioca in difesa con arrocco sull'Italia, ma la politica si divide sulle vie da scegliere per la rete. E ci sono quindi queste due pagine dedicate al futuro di una delle più grandi aziende italiane, che sembra che non sia un futuro roseo nonostante gli interventi fatti, condizionato dal debito amministrativo di Telecom, punta tutto sul mercato interno. E ancora le tre vie per sciogliere la rete, scrive Edoardo Segantini: separazione funzionale, scorporo oppure network condiviso sono le ipotesi che dividono la politica. Questo il Corriere Economico. Mia, che ancora Fiorani e Ricucci tornano in scena, dove? A teatro per il momento. La scalata ad Anton Veneto, organizzata da Giampiero Ferrari, sbarca a Teatro Olmetto di Milano. Debutta l'8 gennaio lo spettacolo Diluvio Universale di Eugenio De Giorgi, ricostruzione delle scorribande finanziarie dell'estate 2005, da Gnutti a Fazzi. Insomma, quindi vedremo in teatro l'epoca dei furbetti del quartierino, così come venivano chiamati. E adesso E ancora vediamo un po' se qualcosa che ve lo segnalo a chi vuole bucare il pallone di Sky. Sì, il raddoppio dell'IVA è solo il fischio d'inizio di una partita più ampia. Fininvest, Mediaset e News Corp Sky Italia si stanno giocando la supremazia sul mercato italiano. La posta in palio è alta, ne fanno parte i diritti per la Serie A, per il campionato 2010-2011, la legge Melandri sulla cessione collettiva, il duello tra piattaforma satellitare e digitale terrestre. Nella trattativa Sky potrebbe essere costretta a cedere una quota delle partite trasmesse in TV. A vantaggio di Mediaset, le ricadute sulla pubblicità sarebbero molto pesanti. Questo si scrive sempre sul Corriere Economia. Il Messaggero apre su Alfano, giustizia malata, riforma subito e ancora questione morale. Partito Democratico, la strategia di Veltroni, qui viene definita via le mele marce e nuovi dirigenti. Ecco un annuncio investito dalla questione morale. Il Partito Democratico di Walter Veltroni cerca di non rimanere incatenato, leggiamo sul Messaggero, e studi la controffensiva in due mosse. Nessuna copertura per quegli amministratori che hanno sbagliato. Via dunque le mele marce, nel contempo rilancio in grande stile del Partito Veltroniano, quello del Circo Massimo. Dobbiamo evitare che il vecchio afferri e sotterri il nuovo. Si punta su una nuova classe dirigente. Bassolino non verrà candidato alle europee, mentre a Firenze favoriti Pistelli e Chiti. Questo si legge sul Messaggero. Ancora, e poi abbiamo concluso il nostro tempo, un editoriale di Carlo Jean: quel conflitto da evitare a tutti i costi è il conflitto da evitare tra India e Pakistan. E con questa segnalazione io ho concluso il mio tempo, quindi vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.